L'abuso che ho subito è qualcosa a cui ho pensato quasi ogni singolo giorno della mia vita. Tuttavia, mi sono sempre sentito troppo pieno di vergogna per poterne parlare e mi vergogno ancora. Ma dopo aver letto le smentite del mio abusatore sui giornali, ho deciso che non potevo più tenere nascosta la mia storia. Sono stato derubato della mia infanzia e della mia fede quando ero molto piccolo. E se posso fare in modo che questo non accada ad altre persone, forse sono sulla buona strada. Io non sono un cattolico praticante. E certo, non ho bisogno che sia la Chiesa Cattolica ad insegnare ai miei figli la morale e i valori, o a distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Ma probabilmente non passerà molto tempo prima che io debba rispondere alla domanda dei miei figli. Papà, che cos'è un prete? Pochi giorni dopo il mio arrivo a Roma, nel collegio della Legione di Cristo, quando la tanto sospirata esperienza religiosa mi sembrava ormai a portata di mano, tutto volse al peggio. Il superiore mi affidò le armi da cavaliere, che consistevano in un libro di preghiere, una fascia metallica cosparsa di spuntoni che mi sarei legato attorno alla coscia tutti i lunedì mattina, e un cordino disseminato di nodi, col quale mi sarei frustato la schiena tutti i mercoledì sera per penitenza. Il cordiale e amichevole tu del nostro precedente cameratismo venne soppresso e al suo posto si stabilì il formale e distaccato carissimo fratello. E ogni forma di amicizia personale fu severamente proibita. Ci vietarono di avere contatti con gli studenti di altri collegi. E ci fu detto che noi legionari dovevamo essere distinti come principi e al tempo stesso umili come servi. Meno di un anno dopo la mia entrata nel collegio, padre Maciel abusò di me in due occasioni. Ho descritto nel dettaglio quello che ho subito in una testimonianza scritta che ho depositato presso un notaio. Solo in seguito mi sono reso conto che se fossimo stati meno ingenui e docili, avremmo potuto capire le vere ragioni di quelle regole del silenzio e dell'isolamento. Se fossimo stati psicologicamente attrezzati, avremmo potuto raccontare agli altri studenti quello che accadeva nel nostro collegio e forse quelli, a loro volta, avrebbero avvertito i loro superiori o le autorità vaticane. La legge canonica permette ai religiosi di scegliersi i propri confessori personali e anche dei preti all'esterno della propria comunità, ma a noi venne vietato. Nessuno si permetteva di sindacare il fatto che i superiori controllassero la nostra posta in arrivo e in partenza. So di alcuni miei compagni che utilizzavano un codice segreto per comunicare quello che davvero provavano. Io stesso una volta ho scritto una nota in codice nel mio diario. Se avessimo richiesto una copia del codice canonico, ce l'avrebbero negata. Niente ci apparteneva. Non eravamo padroni delle nostre parole e col tempo non lo fummo più nemmeno dei nostri pensieri. Malgrado l'apparente amore fraterno cristiano, culturalmente e socialmente noi eravamo isolati, strappati alle nostre famiglie e ai nostri paesi. Vivevamo in un autentico oceano di solitudine. E ognuno si consumava nel silenzio. Ma non ho mai visto padre Maciel stare in silenzio. Non l'ho mai visto pregare raccolto in uno spazio consacrato. Quando ero a Roma, l'ho visto celebrare messa solo raramente. Non dire niente della mia malattia, né a padre Rumi, né a padre Lagoa. Mi disse dopo essersi masturbato, contro la mia volontà, addosso alle mie parti intime. Da quel momento ho cominciato a vivere il silenzio dell'innocente e ho cominciato a lasciarmi morire lentamente, come se fossi in attesa di un silenzio ancora più assoluto. Ho subito una seconda aggressione da parte dello stesso aggressore nel giorno del Sabato Santo del 1955. Cioè, per me oggi è veramente sconcertante ricordare quanto gratuita e naturale fu la violenza e a rendermi conto di quanto fosse assurdamente fuori luogo un'aggressione sessuale a un seminarista nel pomeriggio del Sabato Santo. Dopo, nel buio dell'infermeria, mi disse: vai su e unisciti alla comunità. Non ebbe bisogno di dirmi di stare zitto. Era implicito. Benché vittime di violenze sessuali, a causa delle nostre paure e della profonda dipendenza psicologica, io e altri ragazzi siamo rimasti ancora per qualche tempo nella legione. Subito dopo la nostra uscita, padre Massiel utilizzò diversi metodi e diverse persone per tenerci lontani gli uni dagli altri. Tuttavia, alcuni di noi si confidarono in segreto con alcuni importanti dignitari ecclesiastici. Ci venne detto di rimettere tutto nelle mani di Dio. Altri ci consigliarono di chiudere le nostre testimonianze dentro buste sigillate, da aprirsi solo dopo la morte di padre Massiel. Rifiutammo, perché volevamo affrontarlo a viso aperto per difendere la nostra virilità e volevamo che avesse la possibilità di difendersi. Quando fummo interrogati a Roma, nel corso dell'inchiesta su padre Massiel, ci costrinsero a giurare che non avremmo rivelato niente all'esterno. Ognuno di noi ci aveva messo parecchio tempo a scoprire che anche altri erano stati violentati. Così restavamo in silenzio, perché eravamo tutti vincolati al giuramento. Noi dovevamo trovare un equilibrio tra il giuramento, la nostra salute emotiva e spirituale, la nostra vita, la nostra professione, e intanto dovevamo elaborare la violenza subita. Ciascuno di noi ha adottato diversi gradi di isolamento, finché gradualmente abbiamo cominciato ad aprirci. E a metà degli anni 80 e nei primi anni 90, alcuni di noi hanno cominciato a parlare liberamente con gli altri. Il nostro comune sforzo di reagire alla violenza subita è culminato il 13 febbraio del 1998. Quel giorno abbiamo consegnato una lettera aperta al Papa, alla Nunziatura Apostolica di Città del Messico. 6 mesi dopo, il Nunzio Apostolico ha risposto personalmente a una mia telefonata. Alla fine della conversazione mi ha ricordato che la Chiesa ha i suoi tribunali per occuparsi di queste faccende e mi ha ordinato di non dire niente della nostra conversazione ai giornalisti. Sabato 18 ottobre dello stesso anno, quando abbiamo consegnato la nostra petizione alla Congregazione per la Dottrina della Fede, l'ex Sant'Uffizio, ci è stato chiesto ancora una volta di giurare che avremmo mantenuto il silenzio. Lo stesso Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, disse al vescovo di Coatzacoalcos che il silenzio era necessario nel delicato caso di padre Martial Massiel. Accettammo, in quanto credevamo che la nostra istanza sarebbe stata accolta e valutata alla luce di quanto stabilisce il codice canonico. Ma quando ci siamo resi conto che la Congregazione per la Dottrina della Fede aveva sbrigativamente archiviato la nostra denuncia, abbiamo deciso che non saremmo più rimasti in silenzio. Avevo sentito, come tutti in città, delle voci su una determinata inclinazione omosessuale del vescovo e di tutto il suo entourage di sacerdoti, ma non avrei mai pensato che Monsignor Storni fosse così dedito all'abuso. Io avevo una profonda vocazione e una certa propensione allo studio, ma soffrivo molto per quello che accadeva in seminario. Molte volte vedevo che l'arcivescovo chiamava nella sua camera da letto qualche seminarista. Chiamava sempre quelli che avevano dei problemi con i genitori o che erano orfani. Li accoglieva nella sua camera completamente nudo. E poi arrivavano le pressioni per fare del sesso o gli abusi veri e propri. I compagni poi mi raccontavano dei dettagli raccapriccianti, da far venire i brividi. C'erano ragazzi che arrivavano in seminario verso i 16-17 anni, venivano dalla provincia più remota, avevano poca, nessuna esperienza sessuale. Erano questi che l'arcivescovo preferiva sedurre. Gli diceva di essere loro padre, che avere rapporti sessuali con lui non era peccato. Li frastornava così. Dopo, questi giovani avrebbero avuto una buona sistemazione. Il vescovo prometteva loro una buona parrocchia dopo l'ordinazione. In pratica, li comprava in cambio di sesso. Personalmente, non ho mai condannato le inclinazioni individuali. E neppure mi preoccupa la manifesta omosessualità nei vertici della curia. Quello che trovo aberrante è l'abuso di potere, la manipolazione delle coscienze. Questo fatto copre di fango e di vergogna la nostra Chiesa, che io, come cattolico, amo e difendo. Era il 1972. Avevo 10 anni. Avevo appena fatto la prima comunione. Di quegli anni non ho un ricordo netto, ma ho vissuto la mia giovinezza e la mia adolescenza in parrocchia. E ho conosciuto il sesso con Don Cantini. Iniziai a frequentare la Regina della Pace perché mi piaceva cantare e mi avevano accettata nel coro. Ero conosciuta come una bambina che frequentava le lezioni, attiva, che si buttava animo e corpo in quello che faceva. Nel coro mi davano sempre qualche ruolo di primo piano e questo mi lusingava. Poi Don Cantini cominciò a farmi chiamare di sopra, nel suo studio, nella sua camera. La catechista veniva da me e mi diceva: «Il priore ti vuole su!» E io andavo su. Entravo nello studio. Lui chiudeva la porta a chiave, oppure metteva una sedia contro la porta. Si metteva a sedere e mi faceva sedere sulle sue gambe. Era molto alto, robusto, e io, una bambina di 10 anni. Forse per questo mi sembrava ancora più alto, più grosso di quello che era. Ho ancora un ricordo nitidissimo del mantello nero che portava. Lui mi avvolgeva in questo mantello e cominciava a parlarmi della Madonna che a 12 anni aveva partorito Gesù Cristo e mi diceva: «Tu devi essere forte come la Madonna. Vuoi esserlo?» E io rispondevo: «Certo. Io sono un dono di Dio. E quello che ti chiedo è il ministro di Dio che te lo chiede.» Io ero molto titubante e vedendomi dubbiosa mi blandiva. «Tu sei una persona speciale. Sei la prediletta. Il tuo nome somiglia a quello della Madonna. Hai un nome importante. Non ti fidi di me? Guarda che quello che ti viene dato è un grande dono!» E cominciava a toccare, a frugare. Io mi irrigidivo perché pensavo che in quel modo mi sarei potuta alienare da quello che accadeva sotto quel mantello. Pensavo: «Non sento niente, non sento niente, tanto non sento niente, tanto non sento niente, tanto adesso finisce, tanto prima o poi finisce!» E invece non finiva mai. perché tutte le volte che arrivavo in parrocchia lui mi vedeva dallo studio e prima o poi sapevo che mi avrebbe mandato a chiamare. Avevo paura di dirgli che era peccato, perché sarebbe stato come dirgli che non gli credevo, che non credevo fosse tutto un dono di Dio. Allora gli dicevo che avevo paura a lasciarmi andare, a buttarmi fino in fondo. Questo è un peccato, perché ti devi disinibire, devi essere totale. E quindi mi faceva dire perfino durante le confessioni: sono una puttana, dillo, sono una puttana, dillo, dillo, dillo! Sono una puttana! Solo allora mi assolveva e mi dava da meditare come penitenza il cantico dei cantici. Quando ritornavo in chiesa mi interrogava, mi chiedeva quali erano le mie impressioni. La mia unica impressione era che non avessi scelta, sicché mi metteva in bocca le sue frasi. Era lui il diletto del cantico dei cantici. Vedi? È tutto scritto nella Bibbia. Noi siamo quello che vuole la Bibbia. Mi chiedeva anche dei rapporti orali e voleva che li facessi in modo completo. È come l'Eucaristia, diceva. In un secondo momento, quando ho cercato di nascondere a me stessa quello che era accaduto, ogni volta che andavo a messa e facevo la comunione, sentivo dei violenti conati che mi scuotevano lo stomaco finché non vomitavo. È andata avanti così per 15 anni. Oggi mia figlia ha 12 anni e sta cominciando a diventare una donna. Ed è stato un trauma per me, perché mi somiglia moltissimo. E adesso posso vedere esattamente com'ero io alla sua età. E mi domando se permetterei che accadesse a lei quello che è accaduto a me. E mi domando perché hai permesso che accadesse a quella bambina. Quella bambina vuole essere riscattata. Guardo ogni giorno le mie foto di allora e dentro di me quella bambina grida: voglio essere riscattata! Voglio essere riscattata! In molti sostengono che l'omosessualità e la pedofilia nel clero siano situazionali, cioè non dovuti a una pulsione omosessuale o pedofila, ma all'impossibilità di avere rapporti con le donne a causa del proprio ruolo. Allora, innanzitutto bisogna fare una distinzione tra quello che accade nei seminari e quello che accade nelle parrocchie. L'educazione che viene impartita nei seminari è sessuofobica. Per moltissimo tempo la sessualità è stato un argomento tabù nella formazione del clero. Gli stimoli sessuali erano considerati un peccato, forse il peccato per eccellenza. I seminaristi, soprattutto qualche decennio fa, erano completamente isolati dal mondo. Spesso andare in seminario era l'unico modo per assicurarsi gli studi. Le famiglie ci mandavano i figli perché erano addirittura troppo povere per mantenerli. Si entrava a 10, in 12 anni. Quando con l'adolescenza arrivavano gli stimoli sessuali, c'erano solo tre possibili vie da seguire. O si reprimevano, o si trovava sfogo attraverso la masturbazione, oppure ci si trovava a fare sesso con un altro seminarista. La scelta omosessuale non era legata a una reale preferenza per le persone dello stesso sesso, ma all'impossibilità oggettiva di accedere all'oggetto sessuale desiderato, cioè la donna. Tra l'altro, non dobbiamo dimenticarci di come veniva dipinta la donna, una tentatrice che avrebbe portato alla dannazione eterna. Se anche ci fosse stata comunque la possibilità di accedere alla donna, l'angoscia sarebbe bastata da sola a reprimere qualsiasi fantasia. Diversa è la situazione nelle parrocchie. La possibilità di instaurare una relazione con un partner adulto, uomo o donna che sia, esiste. Con tutti i sensi di colpa che una situazione del genere comporta, ma esiste. Se si sceglie il bambino come oggetto sessuale, non è per mancanza di opportunità. È perché si percepisce il bambino come meno minaccioso rispetto all'adulto. In questo caso il sacerdote non è diverso da nessun altro pedofilo. Certo, il tipo di educazione che viene impartita durante gli anni della formazione in seminario contribuisce pesantemente ad associare all'idea della donna una profonda angoscia. E quando l'angoscia è intollerabile, si cerca come oggetto sessuale il ragazzo o il bambino. C'è una direttiva dell'ONU che proibisce i seminari minori, perché sostiene che il bambino e poi il ragazzo adolescente debbano crescere all'interno della famiglia. Togliere i ragazzi dalla famiglia significa menomare i loro processi di crescita. Il Vaticano non ha mai firmato questa direttiva, ma in molti paesi, negli Stati Uniti, in Irlanda, in Messico, i seminari minori sono stati chiusi. La Chiesa sostiene che la chiusura dei seminari minori sia stata solo una coincidenza. Com'è la situazione in Italia? Quanti ragazzi ci sono nei seminari? I seminari minori hanno chiuso quasi tutti, perché non avevano seminaristi. Questo fenomeno rimane ancora, anche se molto ridimensionato, nel nord-est dell'Italia e al sud, dove ci sono ancora dei seminari minori. Anche i seminari maggiori, in molte diocesi, hanno chiuso. Non esistono più perché i seminaristi sono pochissimi. Gli esperti vicino al Vaticano parlano di una percentuale molto bassa di omosessuali nella Chiesa, più o meno la stessa del resto della popolazione. Ma io posso parlare solo di quel che ho visto e che conosco. Sulla base della mia esperienza direi che almeno un 70, un 80% dei preti, soprattutto nelle alte sfere, è omosessuale o pervertito, o tutte e due. I sacerdoti di rito latino fanno promessa di celibato. Qual è la reale motivazione al celibato? Voglio dire, ufficialmente per dedicarsi esclusivamente al servizio della Chiesa e del prossimo. Ma è così veramente? Purtroppo no. Non tutti i preti sanno cosa significhi servire il prossimo. Ci sono preti che rubano la parrocchia e si arricchiscono alle spalle dei fedeli. Ci sono preti fissati con imporre la castità fino all'eccesso. Ci sono preti con 4 computer in casa. E Dio solo sa cosa ci fanno. Ci sono tanti modi per tradire il servizio del prossimo. Ma questo alla Chiesa non importa. Quello che importa alla Chiesa è controllare la gente, per poter esercitare e conservare il suo potere. E il sacerdote è una vittima di questa mentalità. Certo, si può anche incontrare il prete che ha trovato il modo di vivere il suo sacerdozio con una carità concreta, ma sono una minoranza. La Chiesa che vuole il Vaticano, che vogliono i vescovi, è la Chiesa delle messe, delle processioni, dei battesimi, dei matrimoni, delle confessioni, le messe quotidiane, le messe binare. E cosa vuol dire binare? Vuol dire celebrare 2 messe nello stesso giorno. E la Chiesa che cosa ci guadagna? Le offerte. Dove vanno a finire le offerte? Allora, la metà delle offerte vanno al vescovo, l'altra metà rimane in parrocchia. C'è una quota minima ben precisa da inviare al vescovo per ogni giorno che si dice messa. Quanto? 15 euro. Quindi se si celebrano 2 messe al giorno, al vescovo vanno almeno 15 euro al giorno? Esatto. In una diocesi come quella dove ero io, con 300 preti, se li immagina i soldi che arrivano al vescovo? Un vescovo si arricchisce con queste cose. Tanto chi lo va a controllare? Mi sta dicendo che il vescovo può fare tutto quello che vuole? C'è l'economo diocesano, ma solo per quanto riguarda i beni immobili della diocesi. Il denaro sfugge. Quanto guadagna un vescovo? Il vescovo ha già uno stipendio molto alto, sui 3.000 euro, a fronte di un prete che ne guadagna tra i 7 e gli 800. Inoltre il vescovo va nelle parrocchie ogni sabato e ogni domenica, e perché venga bisogna metterli in una busta almeno 100-150 euro. Quindi, tra lo stipendio, le binazioni e le offerte che prende in giro, non si ha idea di quanto guadagna un vescovo. Ma se una diocesi è in difficoltà, il vescovo non ha il dovere di intervenire? Certo, con i fondi dell'8 per mille, non con i soldi suoi. Il vescovo gestisce un potere economico infinito, perché gestisce i soldi che vanno a lui, e questi sono tutti suoi. Poi ci sono i soldi della diocesi, le rendite dei palazzi, degli appartamenti, degli altri immobili, le libere offerte, l'8 per mille. Come viene amministrato l'8 per mille? Allora, ogni diocesi riceve una parte dei fondi dell'8 per mille, in base alla sua popolazione e in base ai sacerdoti che ha per gli stipendi. Una parte dei fondi dell'8 per mille poi la CEI la utilizza per, non per darla alle diocesi, ma per capitalizzare, acquistare beni, fare investimenti. E gli interventi caritativi? Gli interventi caritativi sono solo il 15, il 20%. Ma il Vangelo, la figura di Cristo in tutto questo, cosa c'entra il Vangelo con i soldi, la capitalizzazione, gli investimenti? Non c'entrano nulla, ma bisogna distinguere le cose. Bisogna distinguere la Chiesa del potere dalla Chiesa dei fedeli. Quando diventi sacerdote, sei uno che deve obbedire sempre e comunque. Se hai un po' di spirito di iniziativa, cercano di schiacciarti, sicché a un certo punto non ti resta altro da fare che uscire, andare via. Nella classe in cui ero io, in seminario, eravamo in 5. Ne è rimasto uno solo che è ancora sacerdote. C'è un'emorragia di preti che lasciano il sacerdozio nauseati della Chiesa che hanno conosciuto e che non corrisponde affatto a quello che credevano che fosse. Il rapporto Ferns è il risultato di un'indagine informale commissionata dal Ministero irlandese per la salute e per l'infanzia, volta a verificare presunti casi di abusi sessuali nei confronti di minori da parte di sacerdoti appartenenti alla diocesi di Ferns in Irlanda. L'indagine è stata richiesta da una vittima di abusi avvenuti in quella diocesi, la stessa persona che ha realizzato il documentario Sex Crimes and the Vatican, trasmesso in Italia ad Anno Zero nel 2007. L'indagine ha riscontrato più di 100 casi di abusi sessuali nei confronti di minori, perpetrati tra il 1962 e il 2002 da 21 sacerdoti appartenenti alla diocesi di Ferns. Scopo primario dell'inchiesta non era quello di accertare la fondatezza delle accuse, ma di verificare le risposte della Chiesa e delle autorità pubbliche a quelle accuse. Ad eccezione di due preti che si sono dichiarati colpevoli di alcune delle accuse, tutti gli addebiti sono stati fermamente negati da tutti i preti ancora in vita al momento in cui sono state avanzate le accuse. Nelle sintesi che seguiranno, i nomi di alcuni preti sono stati sostituiti da lettere dell'alfabeto greco. Padre Collins mi ha attirato nella sua stanza con la scusa di scattarmi delle fotografie. Mi ha fatto spogliare ed ha cominciato a massaggiarmi, concentrandosi nella regione dei genitali. Un'altra volta è venuto nel dormitorio e mi ha masturbato mentre ero a letto. Tutti gli studenti del St. Peter College avevano il terrore di venire chiamati nella stanza di Padre Collins. Aveva l'abitudine di mettere le mani sui nostri genitali, con una stupida scusa, e poi iniziava a masturbarci. Una volta Victor dovette andarci e rientrò nel dormitorio molto tardi, completamente ubriaco e sconvolto. Padre Collins prima lo aveva fatto bere e poi lo aveva violentato. Una notte Padre Collins entrò nel dormitorio con la scusa di misurare il nostro pene per verificare se stessimo crescendo regolarmente. Padre Collins mi chiese di fargli vedere i miei genitali e si offrì di mostrarmi i suoi. Mi obbligava a masturbarlo e a fare sesso orale. Una volta cercò di penetrarmi. Una sera Padre Collins mi chiamò nella sua stanza, mi fece spogliare e misurò ogni parte del mio corpo con un centimetro. Mi accarezzò i genitali per misurare il mio pene quando era eretto. Poi lo prese in bocca. Avevo 15 anni e facevo il chirichetto. Stavo raccontando a padre Alfa i miei problemi familiari ed egli si mostrò molto comprensivo. Mi abbracciò, mi baciò sulle labbra. Poi si inginocchiò e mi masturbò. Questo si ripeté circa una volta a settimana per un paio di mesi. Poi mi costrinse a succhiarglielo ed abusò di me con la complicità e l'assistenza di un altro uomo. Mi violentò per circa un anno. La confessione era un momento terribile per noi. Si svolgeva presso l'altare maggiore. Padre Grennan sedeva su una sedia e ognuna di noi doveva inginocchiarsi su un cuscino rosso davanti a lui. Le altre ragazze dovevano aspettare sedute sulle panche, con gli occhi chiusi, perché ci trovavamo in un luogo sacro verso il quale dovevamo mostrare rispetto. Durante la confessione, padre Grennan ci prendeva le mani e le portava verso le sue parti intime. aveva sempre la cerniera abbassata. Oppure metteva le sue mani sotto le nostre gonne e ci accarezzava le gambe. O ancora avvicinava le nostre teste alla sua e ci sfiorava il viso con la bocca mentre ci faceva delle domande. Ci metteva la lingua in bocca o nelle orecchie. Quando gli dissi che avrei raccontato tutto ai miei genitori, mi diede uno schiaffo fortissimo. Poi mi chiese scusa e mi disse di non dire niente a nessuno e che avrebbe pregato per me. Anche a casa, quando ci faceva visita, mi faceva sedere sulle sue ginocchia e facendo finta di farmi il solletico mi toccava, anche in presenza di altre persone. Mia figlia faceva parte del gruppo di ragazze che erano state abusate da padre Grennan durante la confessione. Denunciammo il fatto e ci venne assicurato che padre Grennan non avrebbe partecipato alla cerimonia della cresima. Invece padre Grennan comparve sin dall'inizio della cerimonia a fianco del vescovo. Così molti uscimmo dalla chiesa in segno di protesta. Quando mia figlia morì in un incidente d'auto, contrariamente alle nostre richieste, il rito funebre venne celebrato da padre Grennan. Padre Grennan era un ospite fisso a casa nostra e qualche volta si fermava anche a dormire. A volte padre Grennan dormiva nel letto di mia figlia e se lei stava già dormendo io non la spostavo. Ma sono sicura che non sia mai successo niente tra lui e Deborah, altrimenti Deborah me l'avrebbe detto. Ha avuto un'adolescenza problematica e si è suicidata a 31 anni. Avevo 13 anni quando padre Fortune cominciò ad abusare di me. Cominciò con dei palpeggiamenti e con dei riferimenti sessuali espliciti. Poi passò alla masturbazione, al sesso orale e infine alla violenza carnale vera e propria. Mi fece giurare sulla Bibbia che non avrei mai detto niente a nessuno, altrimenti sarei stato cacciato dal collegio. Quando raccontai al direttore quello che padre Fortune mi faceva, il direttore si arrabbiò moltissimo, non mi credette e disse che se avessi insistito a sostenere quelle accuse mi avrebbe cacciato dal collegio. Quando padre Fortune cominciò a venire nel mio letto e a toccarmi mentre si masturbava, fece di tutto per essere cacciato dal collegio e ci riuscì. I miei si arrabbiarono moltissimo e da allora venni considerato da tutti un cattivo studente. Era il 1979 e stavo partecipando a un campo scout. Un mattino aprii una tenda per dare la sveglia e trovai padre Fortune che si stava strusciando sopra ad un ragazzo. Il ragazzo mi raccontò che padre Fortune faceva lo stesso con altri ragazzi. Anche un capo scout mi riferì che padre Fortune ci aveva provato con lui e con un altro capo. Facemmo rapporto ai nostri superiori e gli venne impedito di avere contatti con i gruppi scout. Una volta padre Fortune masturbò un ragazzo e lo fece eiaculare di fronte a un gruppo di altri ragazzi. Si comportava come se fosse un gioco, uno scherzo. Accettò di lasciarmi in pace a condizione che gli trovassi un altro ragazzo che andasse a letto con lui. Nostro figlio Brendan si è suicidato all'età di 17 anni. Riteniamo che il suicidio di nostro figlio abbia a che vedere con la sua frequentazione di padre Sean Fortune. Brendan seguiva padre Fortune in molte escursioni. Una volta tornò con i vestiti sporchi di sangue e senza riuscire a camminare bene. Disse che aveva le emorroidi, ma che non voleva farsi vedere dal medico. Gli chiesi se padre Fortune gli avesse fatto qualcosa e lui rispose di no, ma aveva uno sguardo stralunato e impaurito, pieno di vergogna. Nostro figlio conosceva Brendan e ha fatto la stessa fine. Frequentava i ritiri di padre Fortune e diventava sempre più depresso. Noi abbiamo cominciato a pensare che ci fosse qualche collegamento con padre Fortune, ma non siamo intervenuti in tempo. Avevo 16 o 17 anni. Mi trovavo nei pressi della canonica quando sentii delle grida provenire dalla casa di padre Fortune. Entrai nella casa passando dal retro e vidi padre Fortune che abusava di un ragazzo in compagnia di altri due uomini. Andai a riferire a un prete della parrocchia quello che avevo visto e egli mi chiese di mostrargli la dinamica dell'accaduto. Mise una mano sul mio pene ed io fuggii di corsa. Mi fece bere della birra, alla quale non ero abituato. Ricordo che mi svegliai nel letto di padre Beta, con padre Beta nudo accanto a me. sentivo un forte odore di sperma. Rimasi pietrificato per tutta la notte. Al mattino padre Beta mi accompagnò all'autobus e mi disse: ricorda, lo abbiamo voluto tutti e due. Ero una bambina quando entrai in quella stanza, ma non ero più una bambina quando ne uscii. Padre Clancy mi mise incinta. Fuggii a Londra, ma mia madre mi riportò a casa. Non dissi mai chi fosse il padre. Divenni madre a 15 anni e lui minacciò di togliermi la bambina se avessi rivelato chi era il padre. Mi diede 2 assegni da 500 sterline e quando morì mi lasciò 3.000 sterline perché potessi proseguire i miei studi musicali. Mi violentò in un bagno pubblico quando avevo 12 anni. Non lo dissi a nessuno. 13 anni dopo minacciò di raccontare a mia moglie quello che era accaduto tanto tempo prima, se non fossi andato a fare dei lavoretti a casa sua. Mi telefonava circa 3 volte a settimana e ogni volta mi obbligava a fare sesso. Smisi di andarci quando mi chiese di lasciare mio figlio da lui, quando avevo delle commissioni da fare. Mi stava preparando per la comunione. Mi stava preparando per la cresima. Mi stava preparando per il matrimonio. Durante la confessione sedevo accanto a lui e mi toccava le cosce. Infilava le dita nelle mie mutande. Mi mise una mano sul sedere e mi tirò forte a sé. Pensavo che quella fosse una prova per poter ottenere la comunione. Mio padre lo affrontò e lui disse che io ero il demonio. Fu lui, nonostante tutto, a celebrare il mio matrimonio. Marie ora è alcolizzata, cleptomane e ha tentato 3 volte il suicidio. Era appena nato il mio secondo figlio, ma siccome ero molto giovane, abitavo ancora con i miei genitori. Padre Gamma venne a darmi la sua benedizione. Mi mise una mano sulla testa e una sul ventre e cominciò a mormorare qualche preghiera. Poi la mano che era sul ventre scivolò più giù e cominciò ad accarezzare la mia vagina. Quando ebbe finito, scese a congratularsi con i miei genitori. Frequentavo il corso prematrimoniale e quel pomeriggio ero da solo con lui. Padre Delta mi fece sbottonare i pantaloni per controllare se fosse tutto a posto. Mi manipolò i genitali per una decina di minuti, cercando in tutti i modi di eccitarmi. Padre Y mi disse che era in corso una ricerca sullo sviluppo sessuale nei ragazzi e che sarei stato un campione perfetto per questa ricerca. Mi portò in una stanza, mi bendò e mi fece spogliare in attesa che arrivasse il ricercatore. Poi venni palpeggiato e masturbato. Siccome ero bendato, non posso dire con certezza che sia stato lui ad abusarmi, ma né prima né dopo vidi nessun altro nella stanza. Padre Iota abusava di me. Lo dissi a padre K e non accadde nulla. Padre Iota continuò ad abusare di me e io tentai il suicidio. Solo allora padre Iota venne trasferito. Ecco quanto scrisse il vescovo al cardinale per giustificare il trasferimento. Padre Iota ha avuto un coinvolgimento con una parrocchiana, ora felicemente interrotto. Sente il bisogno, ed è stato consigliato, di stare per un po' lontano da questa diocesi. Padre Iota è un giovane gentile ed educato, ma ha bisogno di molta comprensione e solidarietà. In seguito a questi avvenimenti, padre K si avvicinò molto a me, mi violentò e mi mise incinta. A quel punto padre K organizzò il mio trasferimento in un'altra città. Mi faceva scrivere delle lettere che inviava a un suo amico prete a Roma perché questi le spedisse ai miei genitori, in modo da far credere loro che stessi facendo la ragazza alla pari a Roma. Siccome padre K aveva intenzione di dare il bambino in adozione, tornai a casa prima di partorire e padre K non volle riconoscere il bambino. Padre Teta si offrì di pagarmi un viaggio a Lourdes. In albergo unii i 2 letti e cercò di violentarmi. Egregio signor vescovo, ho lottato per moltissimo tempo con terribili crisi depressive, alcune delle quali voi forse potete conoscere, ma altre che quasi nessuno può aver mai sperimentato. Cercando di venirne a capo, anche dietro consiglio del mio analista, mi sento in diritto di dichiarare che anche io sono stata vittima di abusi quando facevo il chirichetto da parte di un prete della diocesi, che ormai è deceduto. Era un carissimo amico dei miei genitori, uno zio adottivo, il mio sponsor all'università, per cui era inattaccabile. So soltanto che aborrivo tutto quello che faceva e che ho sempre inutilmente cercato di non pensarci. Avete ascoltato un certo numero di casi di abuso e non sempre vi è stato illustrato quale corso ciascuno di essi abbia seguito nei rapporti tra i fedeli e la diocesi, tra il sacerdote e i suoi superiori, tra i responsabili del crimine e la giustizia civile. Almeno fino al 2002, un'analisi della letteratura sull'argomento suggerisce l'estenuante ripetizione di un paradigma che si è perpetuato per decenni, forse per secoli, nelle diocesi di qualunque parte del mondo. Nello scenario tipico, quando la vittima di un abuso sessuale o un suo parente avanza rimostranze verso un sacerdote presso un rappresentante della diocesi o presso il vescovo, veniva rassicurato con la promessa che sarebbero state attivate delle indagini e veniva invitato alla massima segretezza. In altri casi poteva essere a sua volta accusato di voler gettare fango sul buon nome della Chiesa e veniva rispedito a casa con le minacce. Dentro le mura della canonica, il sacerdote riconosceva quasi sempre la veridicità delle accuse. Dopo aver confessato, prometteva di non peccare più e non succedeva nulla. Solo nel caso di nuove denunce o sotto la minaccia di uno scandalo, il prete lasciava la scuola o la parrocchia, si trasferiva in un altro contesto nel quale nessuno era a conoscenza dei suoi problemi e la vicenda iniziava da capo. La Chiesa metteva in atto una politica del silenzio, sancita da disposizioni del Santo Ufficio risalenti ai primi anni del secolo e ancora in vita nel 2001, quando il cardinale Joseph Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, nella sua epistola De Delicta Graviori scriveva che l'istruzione Crimen Sollicitationis, ratificata dalla Suprema Sacra Congregazione del Sant'Offizio il 16 marzo 1962, era ancora in vigore. Crimen Sollicitationis è, secondo il diritto canonico, il crimine di provocazione o adescamento, ovvero quando un chierico viene accusato di usare il sacramento della confessione per fare avances sessuali ai o alle penitenti. Sia il documento del 1962 che quello del 2001 prevedono che per il delitto contro il sesto comandamento commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età, la competenza esclusiva sia del Tribunale Apostolico della Congregazione per la Dottrina della Fede e che le cause di questo genere siano soggette al segreto pontificio. In pratica tutto doveva rimanere sotto silenzio e sotto il controllo della Chiesa, che per 40 anni nei casi di questo genere non ha fatto altro che minimizzare e insabbiare. In quanto prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede dal 1981 al 2005, il cardinale Joseph Ratzinger, oggi Papa Benedetto XVI, è da ritenersi responsabile di tutti i casi di insabbiamento di denunce di abusi presentate in quegli anni. La Corte Distrettuale della Contea di Harris, in Texas, nel gennaio del 2005, ha indagato e imputato Joseph Ratzinger per ostruzione alla giustizia e sospetta copertura di casi di abusi da parte di preti negli Stati Uniti. Tale imputazione è tuttora in vigore, ma Ratzinger non può essere processato poiché ha ottenuto dall'allora presidente Bush l'immunità diplomatica in quanto capo in carica di uno Stato sovrano. Nel 2002, la diga che proteggeva gli scandali sessuali nella Chiesa Cattolica ha ceduto quando gli abusi seriali sui bambini commessi da padre John Geoghegan e il relativo occultamento da parte dell'arcidiocesi di Boston sono divenuti notizie da prima pagina. Quell'anno ha visto le dimissioni di diversi vescovi a causa delle loro relazioni sessuali con adulti o con bambini. I vescovi sono stati trascinati negli uffici dei procuratori e nei tribunali per rilasciare deposizioni e testimonianze e i giudici hanno ordinato la consegna di documenti diocesani che in precedenza sarebbero rimasti sepolti nei sotterranei delle cancellerie. Nelle diocesi i preti cui abusi risalivano a decenni prima sono stati sollevati dalle funzioni ministeriali e hanno rassegnato l'incarico. Le diocesi hanno dovuto combattere per sopravvivere economicamente. In seguito al rilascio per ordine del tribunale di migliaia di pagine di documenti della Chiesa di Boston che rivelavano decenni di abusi sessuali da parte dei preti e l'incapacità dei vescovi di affrontare gli eventi in modo efficace, preti e laici di Boston hanno chiesto l'espulsione dell'arcivescovo di Boston, cardinale Bernard Law. A metà dicembre, Papa Giovanni Paolo II ha accettato le dimissioni di quello che era stato fino a quel momento il più potente prelato americano, assegnandolo con la carica di arciprete alla parrocchia di Santa Maria Maggiore a Roma, dove tuttora risiede. Oggi la situazione è leggermente cambiata. Ora la persona che sporge denuncia viene presa sul serio e riceve garanzie che quel sacerdote verrà rimosso da qualunque ministero abbia a che fare con i bambini. La Chiesa si offre di pagare la consulenza psicologica per la vittima. Si raggiungono accordi segreti in seguito ai quali le vittime ricevono somme di denaro. Benché la Chiesa sia stata duramente criticata per la pratica dei patteggiamenti segreti, in molti casi sono state le vittime a volere che gli abusi e i relativi risarcimenti rimanessero confidenziali. Attualmente il prete è quasi sempre sottoposto a valutazione e a trattamento psicologico. A volte sarà nuovamente assegnato a funzioni che non escludono il contatto con i bambini. Altre volte sarà collocato in strutture quali ospedali o ospizi, con mansioni che non prevedono contatti con i giovani. A volte sarà laicizzato. Altre volte rassegnerà l'incarico. I programmi di riabilitazione presentano gradi di efficacia e di credibilità molto variabili. Le determinazioni di riassegnazione alle funzioni sacerdotali non corrispondono sempre in modo adeguato al quadro psicosessuale del soggetto o alla sua propensione a commettere nuovi abusi. Di solito, nei casi di riassegnazione, il clero e la comunità di destinazione non vengono informati del passato del sacerdote. Se l'epilogo dello scandalo degli abusi sessuali nella Chiesa cattolica rimane ancora da scrivere, le sue conseguenze per le vittime sono più evidenti. Per migliaia di uomini e donne in tutto il paese, la piaga degli abusi sessuali non è una notizia sul giornale, ma un aspetto decisivo della propria vita. L'abuso sessuale su minori è quando un minore viene utilizzato da un'altra persona per l'eccitazione o la soddisfazione sessuale di questo o di altre persone. L'abuso non si ha solo quando avvengono il contatto fisico o la penetrazione anale, vaginale o orale. L'abuso sessuale nei confronti di un minore può essere anche soltanto mostrare un film pornografico a un bambino o parlare di sesso a un bambino in modo esplicito. Il trauma psichico determinato dall'abuso sul bambino non deriva unicamente dall'atto verbale o materiale che viene consumato, ma da tutto il processo di avvicinamento, di corteggiamento, di plagio che precede la commissione dell'abuso e dell'apparente normalità che l'abusatore rappresenta in seguito all'abuso, che nella maggior parte dei casi viene reiterato negli anni. Si parla in questi casi di abuso sessuale e relazionale. L'autore di crimini a sfondo sessuale è straordinariamente sensibile ai bisogni emotivi e relazionali delle sue potenziali vittime. Entra con discrezione nella loro vita, avvocando un senso di rispetto, di fiducia e di dipendenza, molto prima che abbia luogo il primo contatto fisico. In particolare nel caso dei sacerdoti, il prete abusatore gode di un incredibile vantaggio sulle sue vittime, in quanto esse si fidano ciecamente di lui, ed egli utilizza il proprio ascendente spirituale per convincere le proprie vittime a sottomettersi ai suoi desideri. La segretezza viene imposta alla vittima con le minacce. L'abusatore si premonisce sempre di ottenere dalle sue vittime la promessa di non rivelare a nessuno quanto è accaduto. Se ci vuole una comunità per crescere un bambino, ce ne vuole una anche perché l'abuso abbia luogo. Ogni qualvolta un minore subisce un abuso, vuol dire che qualcuno ha chiuso gli occhi. Nel corso della storia e attraverso ogni segmento di società, le risposte più comuni al sospetto o anche alla rivelazione di un abuso sessuale su un minore sono state la negazione difensiva e la dissociazione. Non è facile per nessuno affrontare l'allerta schiacciante e destabilizzante dell'abuso sessuale. Alcune vittime di abusi non denunciano il violentatore, poiché lo stimano, li vogliono bene e non comprendono il male che stanno subendo. È proprio la fiducia riposta nell'autore dell'abuso, talvolta, il motore della dissociazione mentale che è diretta conseguenza dell'abuso. Troppe volte i media, al pari della Chiesa, hanno portato molta più attenzione sugli effetti dello scandalo sulla Chiesa che sulle conseguenze degli abusi per le vittime. Quando una persona giovane subisce un trauma sessuale, l'organismo è sottoposto a una ipersollecitazione dell'apparato nervoso. L'iperattivazione del sistema nervoso autonomo e il successivo tentativo del corpo di ripristinare l'ordine sconvolgono la regolazione neurochimica delle emozioni da parte del cervello. Il trauma sessuale da una parte e il tradimento di una relazione affettiva dall'altra danneggiano entrambi il flusso delle sostanze neuronali in grado di modulare le funzioni affettive. In alcuni casi il danno è così difficile da trattare trattare da richiedere l'uso di farmaci per tutta la vita. I superstiti di abusi sessuali adottano spesso comportamenti autodistruttivi. Si tagliano le braccia, le cosce, i genitali con lame, rasoie e pezzi di vetro. Si bruciano con le sigarette. Si strappano i capelli e i peli pubblici. Camminano da soli di notte in luoghi pericolosi. Si sdraiano sulle rotaie delle ferrovie. Guidano ad alta velocità. Intrattengono rapporti sessuali occasionali e non protetti con sconosciuti. Distruggono ulteriormente la propria mente e il proprio corpo con l'alcol e tutte le droghe possibili. Uomini e donne che si prostituiscono hanno spesso subito abusi sessuali durante l'infanzia. I superstiti di abusi sessuali hanno probabilità 2 o 3 volte superiori a chi non ha esperienze di abuso di compiere 1 o più tentativi di suicidio. A volte muoiono. L'autoabuso da parte del superstite serve a padroneggiare la propria vittimizzazione, controllandone i tempi e i modi, e a generare stati di iperattivazione che provochino il rilascio di oppioidi cerebrali, inducendo un momentaneo senso di pace. Inconsciamente, i superstiti di abusi sessuali che agiscono dinamiche autodistruttive vogliono vedere nei volti di chi li circonda la stessa paura, la stessa rabbia impotente, lo stesso scioccante riconoscimento del tradimento totale che essi hanno sperimentato nel corso dell'abuso e al quale nessuno aveva posto rimedio. Che questa devastazione delle anime venga perpetrata da sacerdoti chiamati ad un patto sacro, ad offrire protezione e gioia alle anime dei fedeli, è un male inaccettabile. Che i vescovi e funzionari ecclesiastici abbiano tenuto nascosti i crimini sessuali commessi da preti sotto la loro responsabilità e che abbiano mentito al riguardo è ancora peggio. È il male assoluto. Alcune conseguenze comuni del trauma sessuale includono la dissociazione, l'isolamento, la tossicodipendenza, la prostituzione, la rabbia, il suicidio e la possibilità di divenire autori di abusi. Gli adulti superstiti di abuso sessuale possono sviluppare comportamenti compulsivi come l'uso di droghe, la masturbazione continua, l'attività sessuale anonima e non gratificante, attraverso i quali tornano in modo autoipnotico in uno stato dissociato che un tempo poteva offrire protezione ma che ora interferisce con il normale funzionamento della persona adulta. Nel corso della molestia, la dissociazione costituisce per la vittima un modo efficace per proteggersi dalla devastazione psichica, ma a lungo andare la dissociazione diventa per la vittima una modalità fondamentale del suo essere nel mondo e la condanna a un'esistenza intrappolata nel suo mondo interiore, un luogo dominato dal terrore, da una rabbia furiosa ma impotente e da un dolore per il quale non ci sono parole. Poiché il trauma costringe il cervello a elaborare gli eventi in modo rapido e in uno stato di sovraeccitazione, la strada della verbalizzazione è preclusa. Le violenze sessuali sono codificate dal bambino in forma di sentimenti non verbali, stati somatici, angosce, incubi ricorrenti, flashback, talvolta comportamenti compulsivi. Spesso la vita del superstite è dilaniata da improvvise regressioni, innescate da sollecitazioni apparentemente neutrali. Per le vittime di abuso da parte di un sacerdote, un colletto da prete, il profumo dell'incenso, la rifrazione della luce attraverso le vetrate, il suono dell'organo o l'interazione con preti possono far emergere stati solitamente dissociati. Il sesso, anche con una persona fidata, scatena spesso flashback estremamente destabilizzanti, durante i quali i superstiti talvolta vedono letteralmente il viso del loro aggressore al posto di quello del loro partner e sperimentano orribili rievocazioni del proprio trauma. Inoltre, i superstiti possono provare vergogna e disgusto per i propri impulsi sessuali. Poiché possono aver pensato, è un male che il mio padre spirituale mi tocchi i genitali. Il fatto che mi tocchi i genitali mi dà piacere, quindi il piacere è un male. La prossimità interpersonale viene erotizzata perché il sesso è l'unico modo che alcune persone abusate conoscono per sviluppare una parvenza di intimità. Un bambino abusato apprende che la sessualità è la sua moneta di scambio interpersonale e può diventare seduttivo anche all'interno di altre relazioni, spesso in modo inappropriato. Affamati di contatti interpersonali e al tempo stesso fobici, convinti che la vicinanza sessuale costituisca la principale opportunità per sentirsi amati e per ottenere ciò che desiderano, ma incapaci di sperimentare l'amore se non come abuso, i superstiti di abusi sessuali che permettono a loro stessi di avere una vita sessuale, spesso risolvono il loro dilemma attraverso incontri sessuali frequenti, indiscriminati, intrapresi in uno stato di dissociazione. La sessualità compulsiva rafforza la dissociazione di cui la persona abusata ha bisogno per controllare la propria ansia. Essa offre una quiete momentanea, proprio come l'uso di alcol e di altri comportamenti compulsivi possono offrire un momentaneo sollievo. La persona è intrappolata in un vuoto circuito di comportamenti dal quale sente di non poter uscire. Benché siano stati riportati casi di abusi ai danni di ragazze, la maggior parte degli abusi riguarda giovani di sesso maschile. Le norme di genere maschile prevedono che gli uomini non siano vittime, ma forti, autonomi, mai bisognosi di aiuto e sempre alla ricerca del sesso. Gli uomini sessualmente abusati possono essere portati a negare la propria realtà per aderire a queste norme. Molti uomini identificano la condizione di vittima con la femminilità, quindi non possono né riconoscere la propria violazione né permettersi di rivelare ad altri di essere stati sessualmente vittimizzati. Incapaci di elaborare il trauma ricevuto e di mostrarsi bisognosi, hanno difficoltà di utilizzare le risorse psicologiche necessarie a riprendersi dal trauma e possono avere reazioni controfobiche, diventando aggressivi e super virili. Sebbene le statistiche dimostrino che solo in pochissimi casi le vittime di abusi diventano a loro volta autori di abusi, esse temono di poter commettere abusi e temono che gli altri si aspettino che possano commettere degli abusi. Questo li trattiene dal rivelare la propria storia. Un ragazzo orientato all'eterosessualità prima dell'abuso, in seguito ad esso potrà mettere in dubbio tale preferenza. Un ragazzo orientato all'omosessualità potrà sentirsi prematuramente spinto a definirsi omosessuale o a odiare la sua omosessualità ritenendola una conseguenza dell'abuso. I bambini cattolici imparano a chiamare i membri del clero padre, madre, sorella, fratello. Nel caso di un tradimento sessuale e relazionale da parte di qualcuno che rappresenta un padre nella famiglia estesa del ragazzo, un uomo di cui ci si fida ciecamente, secondo solo a Dio, la vittima di un abuso da parte di un sacerdote deve fare i conti sul piano psicologico con un incesto. Quando un bambino viene abusato da un prete, può sentire di stare tradendo Dio. Anche se è sicuro di non avere mai sessualmente desiderato il sacerdote, può comunque pensare di averlo in qualche modo spinto a infrangere il suo voto di castità. Soprattutto se l'abusante esprime dei complimenti intorno alla bellezza del suo aspetto, la vittima può dedurre che l'abuso è stato commesso per colpa sua. Quando il ragazzo si rende conto di essere stato sfruttato da qualcuno che per lui rappresentava un legame diretto con Dio, il suo credo spirituale può cominciare a crollare. Perché i media si concentrano di più sugli effetti dello scandalo sulla Chiesa che sugli effetti degli abusi sulle vittime? Forse perché vorremmo tutti credere nella fondamentale bontà della Chiesa. Ma un'altra causa fondamentale del disinteresse dei media per le vittime è il tabù che molti continuiamo a nutrire rispetto ai maschi vittime di abusi sessuali. Il pubblico vuole conoscere i numeri e i fatti, ma le storie particolari e spaventose di abuso sessuale su ragazzi, i raccapriccianti effetti negativi e a lungo termine sulle vittime di tali abusi provocano un senso di repulsione. Nessuno vuole ascoltare queste storie. Così le vittime vengono abbandonate a loro stesse. Sono arrabbiato con Dio. Nella misura in cui Dio esiste per me, sono arrabbiato con Lui. Quell'uomo ha mandato in frantumi la mia idea di un essere superiore. Mi ha dimostrato che Dio sbaglia, che Dio non protegge, che Dio non impedisce che accadano brutte cose. Il fatto che quell'uomo fosse un prete ha provocato in me un cataclisma. Mi ha insegnato che c'è una menzogna nel mondo. Ho sviluppato poco a poco un crescente cinismo. Mano a mano che crescevo, mettevo da parte la pietà e iniziavo a odiare gli odori, i suoni, le atmosfere della chiesa. Il suo status di prete gli dava semplicemente via libera. Essere prete era il suo modo di approfittare degli altri. Era il suo strumento. Come chiunque abusi di un bambino, hanno tutti un qualche strumento. Thank you.